Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che la pace di Cristo abiti nei vostri cuori. Oggi prenderemo in esame chi è un cristiano e chi è un religioso. A volte si afferma che un cristiano non è un religioso, ma bisogna specificare cosa si intende per religioso o per religione. Il termine religione viene dal latino religio. Etimologicamente religio è fatto derivare da religere, cioè osservare scrupolosamente, o da religare, cioè legare. Questa definizione, tratta dall'Enciclopedia del Novecento della Treccani, rende l'idea che il religioso è colui che ha uno stretto rapporto o un legame. E poiché nell'ambito del soprannaturale un uomo si lega o è vincolato alla propria divinità, tutte le persone che hanno una fede trascendentale sono religiose. Proprio per questo aspetto, leggiamo nella parola di Dio la seguente riflessione di Giacomo, il fratello di Gesù. Se uno pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la sua lingua e inganna se stesso, la sua religione è vana. La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Dunque, la persona che si è legata con un patto al Dio della Scrittura deve guardare a come si comporta, perché altrimenti possiede una religione vana, vuota o, quello che noi oggi potremmo definire, una religione formalista. Proprio perché vi sono persone che iniziano un cammino con Dio con un sincero legame di amore e di umiltà, ma in seguito la loro spontaneità si riduce ad una formalità espressa in una professione solamente esteriore, si arriva a dire che una persona è religiosa, dando a questo termine una connotazione negativa. In questa trasmissione prenderemo in esame la differenza che intercorre tra il vivere la vera religione, cioè essere cristiani, e l'essere religiosi. La prima domanda che ci si pone è: perché così facilmente l'uomo diventa religioso? Le ragioni sono tante, ma due in principal modo spiccano. Primo, perché l'uomo è maestro nell'arte della imitazione. Con molta abilità noi fabbrichiamo fiori finti, frutta finta e ogni altro genere di cose. E poi perché all'uomo piace o perché trova più comodo essere religioso, cioè avere un rapporto trascendentale senza che questo lo coinvolga più di tanto. Ma il comportamento manifestato con atteggiamenti puramente esteriori non inganna il Dio che conosce ogni cosa, anche se in parte può ingannare il prossimo e illudere se stessi. Come distinguere se ci si comporta da cristiani o se si ha una religiosità inutile? Il primo aspetto di una religione inutile e negativa è che essa è individualistica. L'uomo religioso è preoccupato di se stesso e dei suoi stati interiori, al punto da dimenticare il prossimo. Non per nulla Giacomo ha detto le seguenti parole: la religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è quella di soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Il religioso si preoccupa di aver tempo per pregare, per leggere la Bibbia, per ascoltare la parola di Dio ed istruirsi, ma non si preoccupa degli altri. Anche se ha degli atti altruistici, il religioso rimane egoista, non può amare senza amarsi. Tutti gli altri ruotano intorno a lui e per di più servono per rendere il suo io felice, contento, soddisfatto, beato. Il religioso è modesto per poter brillare, è umile solo per vincere. e virtuoso per poter essere superiore. Aiuta il prossimo per il proprio piacere o per il proprio interesse. Il religioso può essere amabile, servizievole, altruista, ma si offende se il prossimo non sorride o non lo apprezza. È come mettere il prossimo in frigorifero e prenderlo fuori quando ci fa comodo. Il religioso è colui che ama i morti appassionatamente. Molto probabilmente, quando erano in vita, nei suoi confronti essi erano mediocri, indifferenti, o casomai lo insultavano. Una volta morti, il religioso fa il viso mesto, a parole comunque buone, perché verso i morti non ci sono più obblighi. I morti lasciano vivere i vivi, non chiedono nulla, e noi possiamo pensare loro quando vogliamo e come vogliamo, senza per questo avere dei legami barbosi. Il religioso è colui che ha spiccato il sentimento del diritto, nel quale la soddisfazione di aver ragione e la gioia di amarsi sono molle potenti per sostenerlo e andare avanti. Se qualcuno cerca di togliergli questi principi, diventa una belva. Quanti delitti commessi perché non si sopporta di sentirsi inferiori. Tempo fa, un industriale ha ucciso la moglie perché era troppo perfetta e lui era nella impossibilità di ricevere qualche virtù. Il religioso deve sentirsi importante, diversamente il suo rapporto con il soprannaturale non ha senso. Il religioso può andare avanti sulla base della memoria, può vivere per abitudine e non perché abbia per le azioni una base ferma confermata con una vita vissuta. Il religioso ha una fede sociologica. Egli può dare denaro, tempo, può testimoniare della sua fede, ma tutto questo per la pressione psicologica che riceve nell'ambiente in cui vive. Come disse qualcuno, il legame con il soprannaturale è per il religioso una stampella psicologica, un'aspirina glorificata. Un altro aspetto della religiosità formalista è che essa è metafisica. La parola metafisica deriva dal greco ed è composta da due parole, delle quali una vuol dire oltre o dopo, e l'altra fenomeni naturali. Perciò, con la parola metafisica si vuole intendere quella forma religiosa dove Dio è introdotto per complementare, con la parte del soprannaturale, un punto di vista della realtà fondamentale centrata sull'uomo. L'uomo fa tutto quello che può, poi arriva Dio e fa il resto. Questa verità risalta in modo evidente quando si tratta del problema della salvezza dell'uomo. La parola di Dio dichiara che l'uomo è perduto senza speranza, ma l'uomo naturale e religioso lotta disperatamente per evitare la conclusione che la sua salvezza dipenda interamente dalla grazia di Dio. Tutte le religioni trattano il problema del peccato, ma l'uomo viene sempre risparmiata l'umiliazione finale che un altro abbia fatto tutto. Come scriveva un filosofo, il segno che ha distinto la Chiesa primitiva da tutti gli altri sistemi fu che essa posava su due pilastri. Il primo era la scrittura come autorità assoluta al di fuori del calderone dei pensieri dell'uomo. Il secondo era la risposta che dava alla domanda: come può un uomo avvicinarsi a Dio? Il Dio che esiste è un Dio perfetto e allora tutti sono condannati dal momento che nessuno è perfetto. Egli non abbassa mai il suo livello di santità, ma esige la perfezione. Proprio perché l'uomo è irrimediabilmente perduto e incapace di salvarsi, Gesù venne come Salvatore compiendo un'opera perfettamente completa, affinché l'uomo si possa avvicinare a Dio completamente perfetto per mezzo della fede senza l'apporto di alcuna opera. Ma nell'uomo religioso, come in ogni religione, la perdizione non è realmente totale e la salvezza è solo un'aggiunta di una giustizia infusa nell'uomo. Ciò che sfugge all'uomo religioso è che la salvezza è un'opera di Dio per l'uomo e non un'opera dell'uomo per Dio. Chi crede che l'uomo deve fare qualcosa per la propria salvezza ha una fede religiosa vana. E ciò che distingue la formale religiosità è proprio l'incredulità. L'incredulità è sempre fede nell'uomo in se stesso e rifiuto della via e del pensiero di Dio. Ma l'uomo non è libero di imporre i suoi schemi, non può elaborare le proprie idee e portarle fino ad un'apparente armonia con la Bibbia e poi etichettare il risultato come cristianesimo. L'uomo che crede ascolta, il religioso parla. L'uomo che crede accetta il dono, il religioso offre qualcosa. L'uomo non può cercare Dio secondo le condizioni da lui stesse scelte, non può rilegare gli interventi di Dio solo dove lui vuole. Per un cristiano, Dio è presente e interviene ogni giorno e ogni momento. Per il religioso, Dio interviene solo quando non è più in grado di agire da solo. In questo modo, Dio diventa il Dio delle lacune, non è più il Dio sovrano su ogni settore della vita. La preghiera «Dio aiutami» può essere lecita, ma dipende da quale atteggiamento proviene. Se nella richiesta di aiuto vi è il concetto che nella vita ci sono cose di competenza esclusivamente nostra e per le quali non c'è bisogno dell'intervento di Dio, mentre altre faccende sono al di là delle nostre possibilità, allora stiamo vivendo una religiosità inutile e dannosa. Dio non è un Dio che riposa ed è spettatore della vita mentre l'uomo fa tutto ciò che rientra nelle sue capacità. Poi, quando l'uomo ha raggiunto i suoi limiti, Dio interviene. Questo modo di procedere è ateismo o religiosismo. L'Apostolo Paolo ordinava ai Filippesi di rendere nota ogni cosa a Dio, quasi che egli non lo sapesse. Essere cristiani significa avere una relazione continua con Gesù Cristo in ogni situazione della vita. Si è dei meri religiosi quando si chiede a Cristo Gesù di intervenire a favore delle nostre necessità. Così, egoismo e metafisica sono per il religioso le perle che valorizzano la sua condotta religiosa, condotta che ha l'apparenza della pietà, come dice l'Apostolo Paolo, ma ne ha rinnegato la potenza. Proprio perché il problema di una religiosità sbagliata era presente anche al tempo degli Apostoli, Giovanni scrisse nella sua prima lettera queste parole. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ora, se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. E da questo noi sappiamo di essere nella verità e tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui. Poiché, se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono gradite. Cristiani o religiosi? L'Apostolo Giovanni dissipa ogni dubbio. Se abbiamo una religione composta di fatti e verità rivolti verso Gesù Cristo e il prossimo per il suo bene, allora possiamo tranquillizzare i nostri cuori anche se dovessero sorgere dei dubbi. Così che anche voi, cari ascoltatori, possiate dissipare ogni dubbio in merito alla vostra fede con una vita dedicata al servizio di Gesù Cristo e del prossimo.